Euroreportage. Embargo all'Unione Europea. Quanto ci costa dire no a Mosca? Di Laura Bettini. Mosca, 6 agosto 2014. Il presidente Vladimir Putin firma l'UKAS, il decreto, con cui mette al bando per un anno la maggior parte dei prodotti alimentari provenienti da Unione Europea, Stati Uniti, Australia, Canada e Norvegia. Правительство России уже предлагало ряд ответных мер. Carne, pesce, latticini, frutta e verdura. È la risposta di Mosca alle sanzioni impostele dall'Occidente per il suo ruolo destabilizzante, per così dire, nella crisi ucraina. Sanzioni che hanno colpito non solo potenti e amici dei potenti, ma interi settori strategici della Russia: finanza, energia, difesa. È stata una scelta meditata. Mosca voleva colpire l'Occidente, ma non essere atterrata dall'effetto boomerang delle sanzioni, perché ce n'è sempre uno. Chiedetelo a Visa e Mastercard, per esempio, che hanno dovuto abbassare le loro aspettative di profitto per effetto delle restrizioni all'operatività delle carte di credito internazionali in Russia. Però un conto è ridurre i profitti, un altro è soccombere. Quindi la scelta è caduta sul cibo, perché la madre Russia ne produce già abbastanza e il papà mondo ne ha larga disponibilità per chi lo può pagare. E inoltre, dice il presidente di Confagricoltura Mario Guidi, hanno colpito nel settore in maggiore crescita, ovviamente. Probabilmente la diplomazia, anzi quasi sicuramente la diplomazia europea, non ha valutato con la necessaria attenzione l'effetto che avrebbero avuto, diciamo così, una presa di posizione. E noi però ci rendiamo conto che i temi vanno ben al di sopra della questione nostra. Certo, noi vediamo come in una situazione come quest'anno, come il 2014, questo rischia veramente di essere un grave, gravissimo problema ulteriore per le aziende agricole. Eh sì, perché quest'anno all'agricoltura italiana ed europea sono mancate solo le bibliche cavallette: inverno mite, estate piovosa, calo dei consumi e infine l'embargo. Secondo i dati diffusi dalla Commissione europea, nel 2013 l'export per l'intero settore agroalimentare ha avuto un valore pari a 11 miliardi e 212 milioni. Quelli finiti sulla blacklist russa, 5 miliardi e 252 milioni. Per l'agroalimentare italiano, bevande escluse, la Russia è la sesta meta delle esportazioni e l'anno scorso ha fruttato la cifra record di 706 milioni di euro e l'inizio del 2014 aveva fatto sperare ancora in meglio, ma purtroppo le cose stanno andando al contrario del previsto. Ci si rende sempre più conto, insomma, che il mercato è bloccato. Ad oggi c'era un'attesa continua su un possibile sblocco, ma è chiaro che cominciano, diciamo così, a deperire i prodotti che erano stati fermati, ecco. La reazione dell'Europa, dice Confagricoltura, è stata tempestiva ma non risolutiva e lo stesso ha affermato in settimana il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. Bisogna andare oltre i 125 milioni già stanziati dall'Unione a favore delle imprese colpite, ha detto Martina. Li consideriamo solo una prima tranche. Comprensibile, ma non facile. Per la crisi che attraversa il settore, l'Unione Europea ha appena stanziato, ad esempio, un aiuto straordinario da 20 milioni di euro per il ritiro di pesche invendute e altri soldi dovrebbe stanziare a breve per le mele. Ma le preoccupazioni di Guidi non sono solo per l'immediato futuro. Per noi Italia è sicuramente anche un problema di competizione con altri paesi. Non è solo il miliardo in meno di export verso la Russia. Il rischio è che prodotti come il latte, come gli ortofrutticoli di paesi, diciamo, cugini europei, cerchino nuovi sbocchi di mercato, oltre al fatto che se questo blocco perdurerà nel tempo, giustamente c'è il forte rischio che la Federazione Russa cerchi approvvigionamenti al di fuori del mercato europeo. Se l'embargo sarà lungo, dice quindi Guidi, spagnoli, olandesi, francesi, italiani si cannibalizzeranno sui mercati interni dell'Unione, mentre la Russia comincerà a stipulare contratti con altri paesi. Ai nastri di partenza sono già pronti Asia e Sud America per la carne, Bielorussia e Kazakistan per i latticini, Armenia, Azerbaigian o Georgia per l'ortofrutta, con l'aggiunta del più lontano ma assai competitivo Marocco, che già tanti grattacapi ha dato ai coltivatori italiani. Solo pochi giorni fa il presidente russo Putin ha denunciato tentativi di aggirare il blocco attraverso la Bielorussia, dove con etichette Made in Bielorussia sono state coperte quelle originarie dei produttori comunitari. Un gioco a cui non si sono prestati produttori o fornitori svizzeri, che però non disdegnano comprensibilmente di sostituirsi ai concorrenti dell'Unione Europea e stanno già facendo ottimi affari. Per i prodotti tipici italiani, che tanto hanno investito in Russia per farsi conoscere e apprezzare, il danno non è tanto ora quanto in prospettiva, sostiene Mario Emilio Cicchetti, consigliere dell'AICIG, l'associazione che raggruppa i consorzi di tutela DOP e IGP, e direttore del consorzio del prosciutto di San Daniele. In prospettiva il danno crescerà, perché innanzitutto, dai dati che ho io, i prodotti tipici, ma anche l'ortofrutta, mi risulta, avevano crescite annuali del 50% di export anno su anno. Se pensiamo, nel caso del prosciutto di San Daniele, per un esempio, nel 2010 circa iniziano le esportazioni verso la Russia, ogni anno l'incremento di export è stato più 50% progressivo. So che questo trend l'ha avuto il grana padano, l'ha avuto il parmigiano reggiano, l'ha avuto l'ortofrutta in generale italiano. L'altro aspetto è perché, soprattutto nel mondo del lattiero caseario e delle carni stagionate, gli stabilimenti che sono abilitati all'export Russia hanno delle particolari convenzioni, accordi bilaterali Italia-Russia, che impongono oneri di natura proprio gestionale dell'impresa per tenere gli standard russi richiesti a esportazione. Quindi l'impresa che per fare un prosciutto ha iniziato a lavorare 12-14 mesi fa e ha preparato quei prosciutti per l'export Russia si trova oggi impossibilitata ad esportarli, perché quelli che erano destinati a quel mercato dovrà venderli in altri mercati est-europei o nazionali. Quindi ha fatto un investimento inutile, diciamo, in questo momento. Ha fatto un investimento inutile, devo dirle che continua a farlo, nel senso che nessuno ha preso paura per un embargo, tutte le aziende che sono abilitate in Russia continuano a tenere gli standard, per quello che sapevo, per esempio nel consorzio di San Daniele, il prosciutto di San Daniele, continuano le nostre aziende a rimanere attive per il mercato russo, sperando che i tempi evolvano. Per il prosciutto di San Daniele proprio, specificamente, quanto è importante la Russia? No, la Russia in questo momento, dico, aveva grandi prospettive nel prossimo futuro, in questo momento valeva il 3% dell'export, quindi comunque un valore intorno ai 10 milioni di euro, 15 milioni di euro, quindi il danno è piccolo dal punto di vista numerico, però in prospettiva, se si andava a più 50% anche quest'anno, cominciando a raggiungere 20 milioni di euro all'anno, insomma, comincia a diventare doloroso. E noi sono 4 anni che investiamo in maniera significativa come consorzio, anche le imprese, per i rapporti commerciali con la Russia, per preparare un mercato, per educare il consumatore a questo tipo di prodotto e anche il modo di gestirlo, eccetera, eccetera. E quindi è evidente che anche questo è un danno tecnico indiretto che tutti subiamo. Senza contare il lancio che potrebbero avere i prodotti para-made in Italy, come il famoso parmesan, cui i russi potrebbero ricorrere per poter continuare a vendere delle para-lasagne surgelate. Il governo russo ha già annunciato che potrebbe proseguire con embargo su medicinali e auto. Dalla prossima settimana poi entreranno in vigore alcuni divieti su tessili e calzature, un settore in cui, se la Russia andrà fino in fondo, ci farà piangere lacrime amare. Quanto i contendenti potranno spingere ancora sull'acceleratore delle sanzioni? Antonio Villafranca, responsabile programma Europa dell'ISPI. Diciamo che nel momento in cui si dovesse fare il salto dalle sanzioni che riguardano i vari settori produttivi, che riguardano le esportazioni di meccanica strumentale, di tessile e quant'altro, ecco, nel momento in cui si dovesse fare il salto da questo al settore energetico, è ovvio che ci sarebbe un cambiamento di rotta significativo, perché si andrebbero a toccare degli interessi molto sensibili sia in Europa che in Russia. Quindi il momento proprio più sensibile, il momento di cambio di rotta dell'intensità poi di questa diatriba tra Unione Europea e la Russia, sarà proprio il momento in cui si andranno a toccare gli interessi energetici. Ma è plausibile che si arrivi a questo punto, cioè di toccare il settore dell'energia così direttamente? È, diciamo, diciamo un'ipotesi sicuramente al vaglio, ma da entrambe le parti, da ambo le parti, ecco, si sta lavorando affinché non si giunga ovviamente ad una situazione del genere, perché questa sarebbe deleteria sia per l'Italia e l'Europa in generale che per la Russia. Sarebbe un boomerang. È assolutamente un boomerang, perché se è vero che noi abbiamo bisogno di prodotti energetici, è anche vero che loro hanno bisogno di venderli, dei soldi appunto che arrivano poi dall'Europa per sostenere appunto i loro investimenti infrastrutturali. In un mondo globale, ognuno per sé e il gas per tutti. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.